Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera ne parliamo di lavoro e ne parliamo con Walter Passerini. Buonasera Passerini. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Walter Passerini è una voce nota anche di Radio 24, ha avuto una rubrica per alcuni anni, così come ha scritto, è stato responsabile del supplemento lavoro del Sole 24 Ore e adesso scrive, collabora con La Stampa ed è autore di un libro che si chiama La guerra del lavoro, scritto assieme ad Ignazio Marino, edito da Rizzoli. Precariato, disoccupazione, licenziamenti, perché nessuno è sicuro, come trovare un posto dignitoso in un conflitto ormai globale. La guerra del lavoro. Allora, che cos'è questa guerra del lavoro? Walter Passerini. Ecco, partiamo proprio dal globale, cioè è una guerra che riguarda il mondo, che riguarda il rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri e paesi emergenti, che dentro i quali il lavoro sta crescendo, cioè nel mondo complessivamente il lavoro non sta calando, ma sta crescendo, e questo è dovuto all'emersione di un lavoro spesso sommerso, appunto, che all'interno dei paesi ex poveri, che oggi stanno correndo anche a ritmi molto più alti di quelli dell'Europa e dell'Italia, stanno creando anche occupazione regolare. Si calcola che nel mondo ci siano 3 miliardi di persone che in parte lavorano o in parte cercano il lavoro, i posti di lavoro del mondo sono 1 miliardo e 200 milioni o poco più, quindi esiste un potenziale di crescita di 1 miliardo e 800 milioni di posti di persone che premono, che vogliono il lavoro, che vogliono il lavoro dignitoso con i diritti, e in questa pressione certamente l'Europa misura ogni giorno l'influenza e le conseguenze. Questa è una prima guerra globale di cui dobbiamo tener conto, perché un battito di farfalla in Amazzonia lo sentiamo anche a Milano e a Roma. Ecco, ormai siamo nella globalità, questa è una prima guerra, la guerra della scarsità di lavoro, ma come voi dite appunto nell'introduzione, c'è una guerra anche delle competenze sul lavoro. Assolutamente, questo caratterizza soprattutto l'Europa e in particolare l'Italia, perché noi non la vinciamo con la riduzione del costo del lavoro, non la vinciamo attraverso una riduzione dei diritti, ma riusciamo a vincere, diciamo così, questa guerra se facciamo una buona cultura, diciamo così, del lavoro e dell'industria, e allineiamo le competenze rispetto non solo alla domanda del passato, ovviamente sbagliando, ma soprattutto rispetto alla domanda del futuro. Quindi è su questa guerra delle competenze che ci giocheremo tutto, e la seconda guerra che in Italia soprattutto dovremo fare è la guerra della creazione delle reti dei servizi al lavoro, senza i quali noi non riusciremo a creare occupazione. Ecco, magari ci arriviamo, però vorrei sottolineare anche un aspetto, che questo libro non è un libro solo di analisi critica e quindi un po' sconfortante della realtà attuale, ma fin dall'inizio mette in luce come bisogna passare da un clima culturale depressivo e di impotenza a una spinta propositiva e creativa. In questa prospettiva voi parlate addirittura di ottimismo, Walter Passerini. Assolutamente. E certamente la prima considerazione è quella che noi abbiamo bisogno di una guida dell'economia molto forte. Non possiamo pensare, come pensano certi ultraliberisti, che il lavoro nasca da un magico e automatico incontro fra la domanda e l'offerta. Noi dobbiamo favorire questo incontro, e questo lo possiamo fare soprattutto oggi in un contesto in cui esiste una guida dell'economia, una guida delle politiche industriali, perché questo è un paese, il nostro, che non cresce da 20 anni. Allora guida forte sui settori del futuro per poter creare occupazione, e poi tutta una serie di misure, l'introduzione di infrastrutture per il mercato del lavoro che possono aiutare. Ecco, in questa prospettiva va sottolineato anche che il libro non è appunto solo un'analisi, ma anche alcune idee concrete, ha delle schede all'interno in cui si passano in rassegna le opportunità già esistenti, che ci sono, che si possono sfruttare, che si possono verificare, che i giovani soprattutto possono cercare per affrontare questa sfida del lavoro. Sì, certamente, ma io ne posso citare una, perché l'altro ritornello, diciamo così, della nostra analisi è quella che oggi, per esempio, c'è una sostituzione anagrafica nelle professioni dell'artigianato. Quindi, siccome dobbiamo passare dalla cultura del lavoro dipendente alla cultura del lavoro indipendente o intraprendente, come preferisco chiamarlo, è chiaro che l'artigianato è un banco di prova importante. Ci sono 385.000 opportunità di lavoro nel settore artigianale che vengono lasciate dagli attuali titolari che, per ragioni anagrafiche, che hanno più di 60 anni, sono in procinto di lasciare le loro botteghe. Allora io dico, ragazzi, pensate al vostro futuro anche in qualità di artigiani e pensate di combinare un matrimonio tra l'artigianato tradizionale e le tecnologie, perché è da qua che riusciremo a coprire quei 385.000 posti di lavoro. Ecco, l'Italia è descritta, e voi lo dite anche esplicitamente, come il paese delle raccomandazioni. Forse andrebbero dimenticate queste realtà, non sono più attuali, oppure le raccomandazioni sono ancora un elemento fondamentale? Esistono in quanto non esiste un'alternativa, e l'alternativa può essere solo quella della rete dei servizi all'impiego pubblici e privati. Abbiamo 8.000 sportelli in Italia che possono fare aiuto, accompagnamento, consulenza per il lavoro, ma molti di questi sportelli non sono in grado perché sono nati per passar carte, per mettere bolli, francobolli, eccetera, eccetera. Quindi la burocrazia ha sempre caratterizzato i centri per l'impiego. Ora bisogna passare alle politiche attive del lavoro e quindi mettere in ruolo questi 8.000 dipendenti pubblici e questi 10.000 dipendenti delle agenzie private, perché costituiscano davvero una rete di tutela, di accompagnamento, per andare anche alla ricerca di quei giacimenti occupazionali che non solo a livello nazionale ma anche a livello dei distretti e dei territori esistono. Senza la rete e senza un portale pubblico serio, efficace, come hanno altri paesi, noi non riusciremo nemmeno a mettere in atto la misura della garanzia giovani che partirà nelle prossime settimane. Quindi creare la rete è diventato il nuovo diritto al lavoro. Il diritto al lavoro è il diritto ai servizi per il lavoro. Ecco, hai citato la garanzia giovani, questo programma europeo. L'Italia, che in Europa è partito appunto il 1 gennaio, l'Italia è in ritardo anche su questo fronte. Assolutamente, la Spagna è partita a dicembre e la Spagna sta lavorando molto meglio di noi, sia nella ricerca che appunto in queste nuove misure, sta recuperando terreno, e noi siamo ancora impallati perché non siamo ancora culturalmente, oltre che operativamente, pronti, e questo è un bel problema, perché noi dobbiamo davvero cambiare la mentalità ma aiutare queste infrastrutture che oggi abbiamo per conquistare quel 1,5 miliardi di euro che Letta, Enrico Letta, ha conquistato lo scorso anno. Certo. Il rischio è quello che questo 1,5 miliardi rimanga a Bruxelles perché noi non siamo stati capaci di spenderlo, e purtroppo questo è già successo nei 7 anni dal 2006 al 2013, quando gli italiani hanno consumato e speso, utilizzato solo la metà delle risorse disponibili, lasciando a Bruxelles più di 20 miliardi di euro. Ecco, possiamo ricordare che questa Garanzia Giovani è un programma europeo che prevede l'impegno da parte dei paesi, appunto delle strutture per il lavoro, di dare ai giovani entro 6 mesi dalla loro uscita dalla scuola, dalla formazione, o un posto di lavoro, cosa che sarebbe l'ideale, o almeno un percorso formativo ulteriore o una possibilità di fare degli stage o degli apprendistati. Ecco, una garanzia per i giovani. Su questo fronte, appunto, è una grande opportunità che l'Italia deve affrontare. Si è parlato molto di Job Act, lavoro, di interventi per il lavoro, per ora si è fatto abbastanza poco, Passerini. Sì, perché si era partiti bene ai primi di gennaio con un modello di intervento condiviso e condivisibile. Si è parlato anche di come togliere gli ostacoli alla creazione di impresa, quindi c'è tutta una parte sulla riduzione dei costi di produzione per le imprese, riduzione del costo dell'energia che paghiamo al 50% in più degli altri paesi, come la riduzione significativa però dell'IRAP, no? Che è una tassa sul lavoro addirittura. Quindi poi il secondo punto del Job Act conteneva i 7 settori su cui puntare, si va dal turismo all'ICT, al web, alla green economy, alla manifattura, perché senza industria non andiamo da nessuna parte. E poi c'era la parte, diciamo, delle normative. Il problema è che abbiamo finora visto soltanto una forte, forse necessaria, liberalizzazione del contratto a termine dell'apprendistato, ma non abbiamo ancora visto le due misure che sono contenute oggi nel disegno di legge delega, che però ci metteranno dai 12 ai 18 mesi per diventare operative, che sono il contratto di inserimento a tutele crescenti e l'ammortizzatore unico, senza il quale chi perde il lavoro rischia di finire nel girone dei dannati. Ecco, un capitolo, e siamo un po' in conclusione, dedicato anche alla previdenza, con il fatto che i giovani, soprattutto coloro che entrano adesso nel mondo del lavoro, devono anche avere un occhio, diciamo, attento alla propria situazione previdenziale, devono avere maggiore responsabilità rispetto al passato e un po' farsi la previdenza da soli. Qui è il territorio del patto generazionale nuovo che bisogna stringere fra giovani e adulti e anziani, perché il sistema contributivo ha modificato la natura della previdenza e quindi rischia di creare una generazione che non conosceranno la pensione come l'hanno conosciuta i nostri padri e come alcuni di noi la conosceranno perché hanno avuto una vita lavorativa piuttosto lunga. Allora il problema è quello di capire come da un lato sostenere la pensione pubblica per i più giovani, e questo vuol dire far entrare nel mercato del lavoro contributivo e regolare i giovani il più possibile perché possono avere una lunga carriera contributiva, e poi comunque sapere che questa pensione pubblica non potrà non essere integrata con altre formule anche di previdenza, che io preferisco dire complementare, collettiva, piuttosto che individuale. Nasceranno altri fondi, già ce ne sono, ma solo 5 milioni di lavoratori oggi in Italia aderisce ai fondi previdenziali contrattuali e complementari. Questo è troppo poco, quindi dovremo lavorare molto perché i giovani e soprattutto le donne che hanno una carriera contributiva altalenante e intermittente possano davvero avere il welfare che hanno avuto i nostri padri, i nostri nonni e che avremo in parte ancora noi. Bisognerà appunto che ciascuno faccia i conti in casa propria, faccia i conti con se stesso, con le proprie potenzialità, con le proprie opportunità e magari anche sulla base di questo dodecalogo per i prossimi mesi che voi mettete in conclusione del vostro libro, cercare di costruirsi una strada, di costruirsi una possibilità di essere nel mondo del lavoro, forse non con i modi tradizionali che abbiamo sempre conosciuto, ma con dei modi che potrebbero essere anche più avvincenti, più capaci di esaltare anche le possibilità di ciascuno. Grazie a Walter Passerini, autore insieme a Ignazio Marino del libro La guerra del lavoro, edizione Burr Rizzoli, 410 pagine per 13 euro, un investimento per chi vuol capire come funziona il mercato del lavoro e come si possono sfruttare tutte le occasioni. Grazie anche a quanti ci hanno seguito e a Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona serata.